Luca, riesci a sentirmi? Luca, riesci a sentirmi? Attento Luca, se riesci a sentirmi. Luca, riesci a sentirmi? Giuseppe, mi senti? Mi senti? Mi senti? Mi senti, mi senti, mi senti. Ehi, io ti sento, Giuseppe. Sì, forte e chiaro. Strano, io parlo con Antonello Pomponio e non riesco a parlare con Luca da qua. Ho capito. Andave, dai. No, perché stavo facendo alcune prove. Alcune prove, però non... Qua sembra che siano morti tutti in questo canale. Io ti ascolto anche in PMR, Giuseppe. Ti ascolto. Giuseppe, mi senti in PMR? Giulio, mi senti? Giulio, vedi se riesci a copiarmi. Attento Giuseppe, mi senti? Mi senti? Giuseppe, attento Giuseppe, mi senti? Giuseppe, mettiti in un'altra posizione che già ti senti, non sei qua. Ti ho sentito poco fa, basso basso, ma ti ho sentito. Giuseppe, mi senti? Giuseppe, attento Giuseppe Tornado. Giulio, riesci a sentirmi? Giulio, riesci a sentirmi? Giuseppe, PMR, mi senti? Giuseppe? Giulio, Giulio, Giulio.